Sì, mi sento basso, ma mi sento. Ok, perfetto, noi ti sentiamo forte e chiaro. Allora, dunque, insomma, come abbiamo un po' preannunciato nel corso della trasmissione, abbiamo parlato un po' con una compagna che ci ha raccontato, ci ha fatto una bella panoramica su quello che è bella, insomma, brutta però fatta bene, su quello che succede, che sta succedendo in Marocco, e ti chiediamo, insomma, di, anche a te, se puoi, di dirci un po' che succede lì a Barcellona rispetto ai centri di i CIE che sono lì, centri di reclusione per migranti che si trovano lì a Barcellona, e poi magari qualche parola anche sulla mobilitazione di domani, al quale diverse organizzazioni sappiamo che hanno aderito, quindi se, insomma, okay. Vai. Va bene, allora, rispetto, diciamo, al CIE, qui a Barcellona di CIE ce n'è uno, è solo maschile, e in realtà poi ce ne sono molti altri in tutto il territorio spagnolo, però diciamo io posso parlare più specificamente di questo di qua, perché è quello che conosciamo. E niente, in questo momento il CIE in generale è un pochino diverso, diciamo il regime amministrativo dei CIE in generale in Spagna è diverso da quello che c'è in Italia e anche in altri posti d'Europa, perché qua dentro i CIE ci rimane al massimo 3 mesi e dopodiché appunto si viene rilasciati oppure si viene deportati, espulsi. E concretamente in quello di Barcellona, diciamo, la maggior parte delle persone viene rilassato, anche se poi esiste poi tutta una serie di persone che più o meno strategicamente pure vengono deportate. Al CIE si arriva, vabbè, questo penso che è uguale come ovunque, si arriva sia attraverso, diciamo, queste sono le retate genericamente dentro la città, ma molto spesso anche dal carcere. Per cui in questa dinamica per cui le persone entrano in carcere e perdono, diciamo, la cittadinanza o comunque la possibilità di avere permesso di soggiorno, quindi quando escono poi vengono portati direttamente al CIE. La questione dei 2 mesi in generale sembra assurdo, però rende difficile molto spesso quello che può essere, diciamo, il contatto o comunque l'auto-organizzazione, tanto per le persone che sono dentro quanto poi, diciamo, i contatti possibili con noi che siamo fuori, perché 2 mesi, insomma, è un tempo corto anche per in cui ci semplicemente c'è il tempo di rendersi conto di quello che sta succedendo e poco più, e quindi anche, diciamo, poi le lotte che si possono sviluppare da fuori sicuramente sono diverse, anche se ci fosse poi un certo movimento di auto-organizzazione dentro. Attualmente il CIE di Barcellona ha dei lavori, è in cantiere, dei lavori che sono iniziati a novembre e che finiranno in realtà il mese prossimo, quindi insomma si aspetta una riapertura per febbraio, nonostante poi molti avessero pensato, così un po' naif, che sarebbe chiuso per lavori e chiuso per sempre, ma insomma questo è una realtà purtroppo molto lontana. E quindi niente, adesso al CIE ci sono questi lavori in corso, che sono dei lavori di ristrutturazione generici, e niente, noi siamo un po' lì, abbiamo con il nostro collettivo anche un po' segnalato le imprese che partecipano di questi lavori di ristrutturazione, e niente, aspettiamo a vedere quando apre le mobilitazioni poi che si possono sviluppare. Immagino sia anche per aumentare probabilmente la capienza o sono lavori? Cioè i lavori sono adesso da un lato in realtà era perché era una struttura vecchia e quindi avevano bisogno di fare dei lavori proprio di ristrutturazione classica, e poi per aumentare la capienza e per adattarli, per così dire, alle nuove norme, perché qui fino a 2 anni fa non esisteva nessun tipo, diciamo, di normativa anche rispetto alla gestione dei CIE. Adesso hanno scritto questo regolamento, per cui ci sono tutta una serie di questioni che devono essere rispettate, quindi diciamo per adeguarsi a questo tipo di normativa stanno anche facendo questi lavori sulla, per esempio, non so, sulla questione dei bagni, eccetera eccetera. Certo. Quindi è un po' questo adeguamento, diciamo. Una cosa, poi rispetto invece, sì, prima accennavi al fatto delle retate, perché un po' da qui, dall'Italia, insomma, l'amministrazione e il governo di Barcellona viene sempre presentato come un po' il fiore all'occhiello dell'antirazzismo, dell'integrazione, eccetera. Però, insomma, a quello che poi sappiamo da fonti più dirette, in realtà è tutt'altro, quindi cioè, ci confermi? No, sì, questo assolutamente no, nel senso che ovviamente, come ogni buon governo che si rispetti, devono avere la loro faccia pulita e poi la mano sporca, nel senso che qui, quando, insomma, adesso ora da qualche mese si è insediato a Barcellona questo sottopartito di Podemos, quindi l'estrema sinistra per così dire, attraverso Ada Colau, che era la sindaca, che era questo personaggio che ha anche partecipato in epoche lontane al movimento di occupazione, che subito si è, come diciamo, palesata come difenditrice dei diritti dei migranti, eccetera eccetera. E la cosa, diciamo, che buffa, se vogliamo così chiamarla così, è stato che contemporaneamente, nello stesso momento in cui stavano, diciamo, pubblicizzando questa ipotetica chiusura del CIE di Zona Franca, cosa che tra l'altro non dipende neanche né dall'amministrazione comunale né dall'amministrazione provinciale ovviamente, ma nazionale, comunque mentre stavano pubblicizzando questo aspetto, dall'altro lato hanno iniziato una campagna molto molto violenta rispetto contro, diciamo, i vettori ambulanti, che sono stati attaccati più volte da, diciamo, quelli che sono qua, i sbirri antisommossa, che però sono tipo visite urbane antisommossa, una cosa che esiste solo qua a Barcellona, e niente, sono stati attaccati più volte, mandati via dagli spazi che normalmente occupano, arrestati, eccetera eccetera eccetera. Quindi proprio cioè, nel senso, con un'operazione, ovviamente i vigili urbani dipendono dal comune, quindi certo, con un'operazione assolutamente orchestrata alla faccia da Podemos, esatto, sì, e contemporaneamente anche a che l'Ada Colau, appunto la sindaca, e poi con tutto il partito, faceva questa grandissima campagna sulla questione dei rifugiati, come Barcellona come città di accoglienza, eccetera eccetera. Beh, le solite, insomma, pura propaganda, e poi fatti pochi, anzi un po' che raccontano un po' il contrario. Sì. Ok, nel senso che sì, questo è, nel senso che poi non è soltanto Podemos, adesso noi abbiamo la gioia di avercela a che vedere non soltanto con un partito a livello nazionale, diciamo, di estrema sinistra, che quindi è anche molto molto molto felice di riappropriarsi di determinati discorsi, di determinati tematiche, ma abbiamo anche un partito, diciamo, indipendentista, quindi locale, anche questo di estrema sinistra, che fa anche questo lavoro, diciamo, di pulizia di facciata rispetto ai temi comunque di CIE, frontiere, eccetera eccetera. Quindi una situazione abbastanza complicata, insomma, siete fortunate, fortunati lì. Bene, quindi da questo passiamo un po', appunto, ci hai fatto un po' questa panoramica, insomma, abbastanza complessa, soprattutto appunto per la presenza di questi partiti chiamati così di estrema sinistra, ma poi appunto, insomma, ormai i termini sono un po' così difficili anche da capire, esatto. E insomma, raccontaci un pochino lì a Barcellona che cosa si sta muovendo per domani. Appunto, abbiamo fatto questo collegamento con il Marocco, in cui con una compagna che ci ha un po' spiegato che cosa si sta muovendo lì. Le manifestazioni previste, quelle principali, sono appunto a Rabat, la capitale del Marocco, e a Ceuta, e anche a Barcellona ci saranno delle mobilitazioni, quindi raccontaci un po' che sta succedendo. Allora, sì, beh, mi immagino, insomma, perché il 6 febbraio, mi immagino che la compagna sicuramente vi aveva spiegato il perché di questa data concreta, e rispetto, diciamo, appunto alle mobilitazioni che ci sono a Barcellona, dunque c'è una mobilitazione che diciamo fa un po' parte di quella che è stata la campagna a livello internazionale rispetto, diciamo, appunto, diciamo, la grafica, per così dire, anche un po' al discorso che faranno una serie di In realtà due iniziative, una che è davanti alla delegazione del governo, quindi diciamo la rappresentanza del governo centrale spagnolo qui a Barcellona, faranno una concentrazione, e dall'altra ci sarà la proiezione di un documentario appunto sui fatti della spiaggia del Tajal, che è appunto dove sono avvenuti queste morti, questi assassinati 2 anni fa da parte della Guardia Civile. E dall'altro lato noi abbiamo deciso di fare un'iniziativa a parte, perché insomma non ci trovavamo del tutto d'accordo con certi contenuti e soprattutto con certe organizzazioni che partecipano concretamente della convocatoria della chiamata qui di Barcellona, e quindi faremo, diciamo, rispetto alla, come area libertaria, faremo una bicicletta un po' con l'obiettivo di individuare, segnalare varie imprese, vari luoghi dove diciamo si manifesta, per così dire, il discorso razzista e la frontiera più in là della frontiera stessa, diciamo, di Ceuta in questo caso. Quindi percorreremo vari luoghi della città che insomma sono attraversati in questo senso da una frontiera invisibile, però che c'è, e quindi faremo visita a una serie di imprese che collaborano con la deportazione, che alcune altre imprese che diciamo sviluppano la tecnologia del controllo a livello della frontiera, e niente, un pochino più così fuori bene, tema, bene, però mi sembra una risposta concreta e buona, anche un po' per svincolarsi appunto da tutta questa propaganda, questo regime propagandistico dei partitini. Esatto. Insomma, di quelli che poi durante queste giornate così di mobilitazione internazionale magari si ripuliscono, come dicevi, sì, tu, la faccia, e poi durante tutto l'anno continuano a fare, insomma, soldi e quant'altro sulla pelle dei migranti. Certo. Sì, sì, esatto. No, a noi poi ci sembrava interessante, l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, però diciamo semplicemente cambiando il quartiere. Ci sembrava interessante anche individuare non solo nella polizia o nello Stato spagnolo, diciamo, un nemico che fa sì che esistano le frontiere e le politiche repressive nei confronti di chi le vuole superare, ma che poi ci sia, diciamo, un panorama molto più ampio, che appunto sono tutta una serie di imprese e di personaggi che ne fanno anche un business, diciamo, della frontiera. Questa è anche un po' la tematica che si interessava sviluppare, un po' come che non è solo il punto di Ceuta, e poi soprattutto perché non volevamo sviluppare troppo il discorso che molto si sta sviluppando rispetto alla impunità di questi poliziotti che non sono stati condannati, perché per quanto ci riguarda, insomma, il tribunale non è il luogo dove vogliamo risolvere le nostre questioni, e quindi per noi il problema non è tanto che non siano stati o che siano stati assolti questi poliziotti, quanto in realtà poi l'infrastruttura e il sistema che sta dietro a questa questione. Siamo, penso, qui in studio tutti d'accordo, assolutamente. Quindi guarda, se non hai nient'altro da aggiungere, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie a voi. A presto, magari ci risentiamo. Ci risentiamo presto per qualche altro collegamento. Va bene? Ok, perfetto. A presto, un abbraccio. A presto, grazie, ciao ciao a tutti, ciao.